L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, io sono Achille Corea e questa è l'Italia vista dallo spazio. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra trasmissione, alla fine della nostra impresa. Nelle ultime 5 settimane abbiamo messo da parte oggetti, persone, cose nel tentativo di raccontare l'Italia e abbiamo già riempito 23 dei 24 posti disponibili con delle scelte a volte, se vogliamo, anche prevedibili, altre volte un po' strane, un po' particolari, però secondo me quasi profetiche. Ad esempio devo dire che l'altro giorno, quando una settimana fa, quando abbiamo visto la vittoria del Chinotto contro il caffè e il vino, tutti si sono stupiti. Poi non è passata nemmeno una settimana e Berlusconi ha rilasciato un'intervista in cui ha detto: torna Batman, torna il Chinotto, torno anche io. Ieri Enrico Letta del PD ha lanciato questa grande campagna: salviamo il Chinotto e la spuma bionda. Io devo dire, siete stati quasi, diciamo, anticipatori, e la cosa mi preoccupa perché su successo col Chinotto. L'altro giorno abbiamo salvato il bidet. Io non vorrei assistere a dibattiti politici nel finale dell'agosto italiano sul bidet, ma insomma ormai mi aspetto di tutto. Comunque, oggi abbiamo un altro argomento, abbiamo l'ultimo posto da assegnare e oggi vi chiedo di scegliere insieme a noi un personaggio immaginario. Tiratelo fuori da un libro, da un film, da una serie TV, da un fumetto. Basta che sia una creazione italiana e che sia un personaggio che esiste solo nella fantasia. Chiamateci per dire quale personaggio immaginario rappresenta meglio l'Italia all'800 24 00 24. Posto numero 23 in attesa di assegnazione. E devo ancora dirvi ovviamente che cosa ha vinto ieri, perché noi vi diamo tempo anche durante la giornata, durante la replica, per votare su Facebook, su Twitter, via SMS. Ieri dovevamo scegliere un calendario, non nel senso di scegliere tra Frate Indovino o Alessia Merz, un calendario nel senso di un anno, e alla fine ha prevalso l'anno della vittoria dei mondiali con l'urlo di Tardelli, l'anno dell'apertura ufficiale degli anni 80 come li conosciamo. Io sono quasi contento perché li abbiamo trattati talmente male gli anni 80 che poi abbiamo scoperto che bastava aspettare un po' e sarebbe arrivato molto di peggio. Il calendario che mettiamo nella nostra astronave è quello del 1982. Posto numero 23 assegnato. Allora, dottore, che mi dici? Che è una bella giornata. Sì, bellissima. Io però dicevo del morto. Lei è più camorroso della morte. Ma che minchia vuole che le dica? Allora, prendetelo da dove volete questo personaggio immaginario, da un libro, da un film, da una serie o da tutto quanto insieme, perché poi ci sono dei personaggi che superano i limiti dei generi e dei mezzi espressivi, come ad esempio Montalbano, personaggio molto amato in Italia, molto rappresentativo, forse diciamo più immaginato, più sognato che reale nel suo rappresentare l'italiano onesto, forte, anticonvenzionale, che però vive sia nei romanzi di Camilleri sia nelle serie TV con Zingaretti. Personaggi, vedrete, ce ne sono, ci sarà il solito problema non tanto di trovarne uno ma di scegliere, e lo chiedo a voi, lo chiedo ai nostri ospiti. Il primo ospite qui con me, sono contento perché così tranquillizzo gli ascoltatori, visto che da lunedì torna in onda Gianluca Nicoletti, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio. Gianluca, la domanda è così, è secca e immediata: qual è il personaggio di fantasia che rappresenta meglio l'Italia? È colui che è il protagonista di una filone di letteratura di formazione alla quale io stesso ho attinto, e sono un ragazzo degli anni 50, continuo a attingere mio figlio che ha 40 anni meno di me. Si tratta di Fantozzi. Fantozzi, che rappresenta l'apoteosi, l'infingardaggine italiana, devo dire che ci ha seguito e ancora ci mantiene costantemente in un periodo indefinito, al di là di ogni connotazione cronologica. Noi siamo tutti Fantozzi, siamo il suo universo, siamo questo impiegato vile, siamo questa persona che si comporta nei confronti delle brutture della vita come una mosca su una cacca di cane sul marciapiede. Ci sta perfettamente a suo agio, si piange addosso, è vittima, allo stesso tempo è di smodata lussuria, è prepotente, è vigliacco, è totalmente anaffettivo, guarda come una scimmia il frutto del proprio rapporto coniugale, tratta la moglie come una bestia, non esita allorquando la sua corrispettivo nel mondo femminile, che la pessima signorina Silvani, una vecchia troia come si trova in ogni ufficio, che è naturalmente il punto di arrivo, il vero motore che rappresenta il senso della gerarchia opposta, che è la molla della nostra, del nostro mondo professionale. Beh, le regala un castello, si indebita fino al collo per regalare un castello, e la castellana è questa orribile donna. Ti sento bello pimpante, saranno contenti gli ascoltatori in vista di lunedì. Fantozzi ormai è un personaggio che ha 40 anni, cioè è nato prima ancora dei libri di Fantozzi. Villaggio lo raccontava proprio a teatro, faceva i monologhi in cui parlava di questo Fantozzi. Il fatto che dopo 40 anni ancora ci riconosciamo in lui, gli italiani si riconoscono in lui, è una cosa che ti preoccupa o che tutto sommato, insomma, quasi ti consola, ti tranquillizza? A me non preoccupa, perché sono un fanatico dell'Apocalisse, quindi figurati, tutto ciò che accelera al nostro cammino di degenerazione non può che essere il benvenuto. No, trovo che abbia quei segni distintivi del personaggio che appartiene appunto all'epica, come tanti altri personaggi che studiamo come letteratura, studiamo come testo di approfondimento alle civiltà passate. Nulla come il personaggio di Fantozzi che racconterà l'Italia dagli anni del dopoguerra, dal boom, dal momento in cui abbiamo cominciato a sentirsi italiani quasi americani, fino ad oggi continuiamo a sentirsi italiani quasi americani, ma in realtà siamo ancora tutti Fantozzi, anche sì. Se poi il terziario ormai fa parte del passato, siamo in un altro mondo, eppure siamo Fantozzi in ogni nostra manifestazione corporale, fisica, professionale, creativa. Ma guarda che anche la nostra intelligenza è fatta di Fantozzi, la nostra classe politica è fatta di Fantozzi, la creatività, la poesia, la letteratura, il pensiero in Italia è tutto fatto di Fantozzi, di grandi velleità, capito, che vivono appunto come la mosca nella cacca del cane. E con questa, diciamo, immagine di tutta l'Italia che a vari livelli è Fantozzi, io ringrazio Gianluca Nicoletti, ti ritroviamo lunedì mattina dalle 10 e grazie per aver scelto per grazie, noi. Grazie, grazie, grazie. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire... La quantità di scene che avremmo potuto farvi vedere di Fantozzi, quei primi film, sembrano delle compilation di scene prese da film di successo, e invece stanno tutti in quei primissimi Fantozzi in cui scena dopo scena viene costruito questo personaggio effettivamente imponente nella sua bassezza. Ma ci sono altre possibilità, altre scelte. Poi devo dire, noi abbiamo fatto delle puntate nel corso delle 5 settimane che vi potrebbero tornare utili, perché abbiamo parlato di fumetti, perché abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di televisione, insomma ci sono vari mondi da cui potete prendere il personaggio con cui identificarsi, il personaggio immaginario. Voglio cominciare a sentire gli ascoltatori che stanno chiamando all'800240024. Concetta da Reggio Calabria, benvenuta. Grazie, buongiorno. Concetta, che personaggio scegliamo? Ah, io ho scelto Diabolik. Diabolik, ricordiamo, personaggio sì, italiano inventato dalle sorelle Giussani, se non sbaglio. Sì, è un personaggio che io ho seguito moltissimo negli anni della mia adolescenza, diciamo prima giovinezza. Mi piacevano in particolare le storie che di Diabolik si raccontavano. Mi piaceva il fatto che fosse, oltre che bellissimo, che formasse una coppia meravigliosa con Eva, ma un personaggio di estrema intelligenza e poi un personaggio Concetta, spericolato. Concetta, ma ci rappresenta, spericolato, bellissimo e intelligentissimo, sì. Rappresentano italiani? Beh, per certi aspetti sì, e dovremmo andare a stabilire poi quale fascia di italiani, perché il target non riguarda tutti, diciamo, no. Ecco, dovremmo andare ad individuare, e oggi noi italiani non siamo tanto spericolati. No, e forse nemmeno belli e intelligenti, però diciamo è un personaggio aspirazionale, no, pur nella sua negatività. Grazie Concetta da Reggio Calabria per la scelta di Diabolik, personaggio di fumetti ma italianissimo, nonostante le sue avventure siano ospitate e ambientate in un immaginario, una cittadina francese, Clairville mi pare. Io andrei col prossimo ospite, che è uno sceneggiatore, ed è Giacomo Scarpelli, benvenuto. Buonasera, buonasera. Buonasera, noi insomma non lascio suspense nella scelta, nel personaggio di cui vorrei parlare con lei, perché è uscito da poco un libro che diciamo rende in forma romanzata uno dei più grandi film della storia del cinema italiano, che è il romanzo di Brancaleone, scritto da e poi portato al cinema da quello che è un dream team del cinema italiano, Mario Monicelli, Age Scarpelli, e lei è figlio di quello Scarpelli che ha creato questo insieme agli altri, questo personaggio straordinario che diciamo poi è stato portato due volte al cinema, ma che anche in questo romanzo dimostra una forza incredibile. E come mai, insomma, qual è la prima cosa, il primo motivo per cui Brancaleone è un personaggio rimasto così fortemente nella storia e nella mente degli italiani? Ma Brancaleone è un personaggio per certi versi complementare, adiacente a Fantozzi, visto che ne abbiamo parlato, e che è anche ricorrente, credo, nella narrativa cinematografica di Monicelli, di mio padre, di Age, perché è strettamente collegato con i soliti ignoti, per esempio. Non a caso Gassman interpretò tutti e due i film. È collegato con La banda degli onesti, che è sempre scritto da Age e da mio padre, se ricordate, con Totò. Cioè, qual è il cuore di questo tipo di narrazione? Un gruppo di disgraziati, di infelici, spesso di morti di fame, che si mettono insieme in cerca di una vita migliore, in cerca di una conquista, di un tesoro, di una situazione migliore rispetto a quella presente. E quindi Brancaleone è in questo senso paladino italico, senza paura e senza armatura, senza calzari e senza danari, che incarna proprio questo desiderio di avere una vita migliore. Soprattutto i soliti ignoti poi uscivano dal secondo dopoguerra, quindi da grande fame, disperazione. E però Brancaleone forse ha anche qualche elemento in più rispetto a Peppe il Pantera dei soliti ignoti, cioè incarna da un lato appunto l'Italia cialtrona, anche di oggi si dice, i politici sono un'armata Brancaleone, questi sono anche un po' luoghi comuni. Sì, però diciamo è rimasta l'armata Brancaleone, è diventato un modo di dire, nonostante ci ricordiamo tutti benissimo da dove venga, però è diventata proprio una categoria. Sì, una categoria, però contiene anche qualcosa di positivo, non soltanto di negativo, proprio l'idea dell'impegno, dell'unione, lo stare insieme, l'unione fa la forza, non tutto è perduto, c'è qualche speranza ancora. E quindi anche la conservazione di uno spirito infantile, io penso, che è quello che poi non fa perdere appunto la speranza alle persone, lo stare insieme e l'avere solidarietà. Brancaleone è un paladino degli ultimi, destinati a restare ultimi, e che però legittimamente cercano di rincorrere un'esistenza migliore. Quindi direi che come eredità di oggi Brancaleone ha sia l'aspetto cialtronesco, diciamo, ma anche il desiderio di mettersi insieme per superare le crisi, diciamo, oltre a quello che poi invece è l'eloquio, il modo di dire di Brancaleonesco, che poi ormai è proprio entrato. L'uomo allo mio servizio non teme né piova né sole né fuoco né vento. Lo quale servizio? Siamo tutti allo pari. Silenzio! Io vi sono duce! Però mi dovete obbedienza. Questa è l'indimenticabile voce di Gassman nell'interpretazione di Brancaleone da Norcia. Questa è l'Italia vista dallo spazio. Siamo di nuovo insieme. Con noi c'è Giacomo Scarpelli, sceneggiatore e figlio di Furio Scarpelli, che insieme a Monicelli e Age inventò questo grandissimo personaggio, che dicevamo però aveva degli elementi anche positivi. Noi comunque di Brancaleone ricordiamo il fatto sempre dell'armata malinarnese e diciamo quasi ridicolo piccola grottesca nei confronti di cose di armate ben più organizzate, però Brancaleone era coraggioso, era onesto e aveva una moralità che poi nel corso del film, lo dico per gli sventurati che non l'avessero visto, che dovrebbero correre a vederlo, secondo me paga anche per un eccesso di moralità, quindi forse è diciamo potrebbe anche essere un po' un'aspirazione per noi italiani essere in quel senso come Brancaleone, vero? È vero, è giusto. Aveva tutto sommato un suo rigore etico che lo rendeva ridicolo, ma al tempo stesso penso ce l'abbia fatto amare. È un personaggio inventato, e stiamo parlando appunto di personaggi di fantasia, ma che aveva i piedi proprio nella nostra storia. E qui possiamo anche discutere sul concetto di fantasia e di immaginazione. La fantasia spesso è qualcosa di campato in aria e che rimane fine a se stessa. Brancaleone è un personaggio immaginato perché parte proprio dalla osservazione della realtà, la realtà dei nostri tempi come la realtà medievale, e per questo se si parte dalla realtà poi si può arrivare, visto che parliamo anche della Terra vista dallo spazio, si può arrivare anche sulla Luna. Quindi al di là dell'apparato buffonesco di battute, di versi e di versacci, io direi che da Brancaleone trapela un'immagine di un'epoca e di una vita più vera anche di altre ricostruzioni, tanto che un medievista quasi come Franco Cardini, quando uscì Le Crociate di Ridley Scott, che peraltro è un bel film spettacolare, si sentì in dovere di esclamare: aridateci Brancaleone, nel senso che Brancaleone era molto più fedele al Medioevo con quella sua parlata burina, centro-italica, contrapposta all'aulico storica, di Brancaleone, sì, sì, di tanti film hollywoodiani. Poi. E con questa bella citazione io saluto Giacomo Scarpelli, lo ringrazio di essere stato con noi e ricordo il romanzo di Brancaleone uscito da pochissimo con Gallucci Editore. Personaggi di ogni tipo stanno arrivando tramite SMS al 349-238-6666, soprattutto ritornano i fumetti. Carlo da Bergamo dice il gruppo TNT, anche Paolo dice Alan Ford con tutto il gruppo TNT, c'è un messaggio non firmato ma lo voglio citare, se parliamo di sfigati ma vincitori, Oronzo Canà, che era l'allenatore nel pallone interpretato da Lino Banfi. E vorrei sentire qualche ascoltatore prima del prossimo ospite. Antonio da Roma, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, che cosa scegliamo? Direi che dopo l'intervento di Nicoletti è difficile scalzare Fantozzi. Sì, là, ci ha messo anche diciamo una forza retorica. Dice, ma non vi preoccupate, è un voto, quindi vale uno. Io però volevo proporre la linea di Osvaldo Carandoli. Perché? Che personaggio ricordiamolo, insomma, era una linea muta, faceva dei versetti strani. Diciamo che a mio avviso richiama un po' quello che è l'italiano, insomma, un tipo un po' appassionale, un po' irascibile, e però anche là racchiude un po' tutta quella che è il genio dell'Italia, il fatto di fare delle cose assolutamente intelligenti con poco, con nulla. Ok, quindi anche più l'idea diciamo del creativa oltre che il personaggio in se stesso. Grazie, andrei su Paolo da Torino, benvenuto. Sì, buonasera. Che personaggio scegliamo? Ma a me è venuto in mente Pinocchio. Perché? Beh, perché innanzitutto è uno dei primi cartoni che film in questo caso, perché ricordo nella mia giovinezza. Quanti anni ha Paolo da Torino? 43 anni. 43 anni, sì, sì. Quindi in quel periodo lì era uscito il film di Nino Manfredi, però in realtà poi nel tempo. Il film di Comencini con Nino Manfredi, sì, che faceva un grande cast. Nino Manfredi, sì, che faceva Geppetto. Franco Franti, Ciccio Ingrassia, eccetera, sì, che erano i comici dell'epoca. E poi ovviamente crescendo, quando hai una famiglia, i bambini ritornano a ricorsi storici e rappresenta un po' la speranza, nel senso che poi alla fine è un bambino che dopo tante vicissitudini, un po' come gli italiani, alla fine vanno poi, prendono la retta via e proseguono con speranza per un futuro migliore. Quindi speriamo, speriamo. Grazie Paolo da Torino, speriamo che gli italiani diventino bambini dopo averci tanto provato da burattini di legno. Detto così adesso sembra anche molto pesante, però no, siamo un po' così, siamo un paese sempre in attesa di passare a uno stadio successivo. Una volta sarei contenta di me, ma non te l'ho detto, mi sono rimesso a posto, ma davvero, senti, ho messi tutti lì, tutti sotto all'impanese. Volevo anche darvi un po' di suggerimenti su personaggi più recenti, non so, questo era il libanese che passando dal libro di De Cataldo al film di Michele Placido alla serie TV Romanzo Criminale è riuscito insomma a diventare un personaggio di riferimento, anche se negativo. Ne parlavamo con Giancarlo De Cataldo in una delle prime puntate di Televista dallo Spazio, comunque dà l'idea di un personaggio che sapeva lottare, aveva voglia di emergere anche se in una maniera completamente sbagliata, però forse di questa voglia di emergere c'è bisogno. Citazioni per Montalbano, se vogliamo parlare di un altro personaggio recente ma completamente diverso. Nel frattempo io vorrei conoscere la scelta della nostra terza ospite, che è la scrittrice Silvana De Mari. Benvenuta. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io prima però di dire la mia scelta vorrei dire una cosa. La mia carriera di scrittrice è cominciata a 19 anni dopo aver visto Brancaleone alle Crociate. Sono tornata a casa con gli occhi pieni dei colori di questo strepitoso medioevo e ho cominciato le prime righe di un racconto, Il Cavaliere, la Strega, la Morte e il Diavolo, che poi è diventato libro pochissimo tempo fa, nel 2009. Io lo ignoravo completamente, ma lo dico non per dire che poi le cose tornano così, in maniera anche casuale, ed è bello. E invece la scelta... Brancaleone è un personaggio straordinario. Sì, sì. La mia scelta è invece di un vero uomo del Medioevo, nel senso che l'Ulisse di Dante, in teoria è stato qualche secolo prima, parecchi secoli prima, ma l'Ulisse di Dante viene scritto durante il Medioevo e non ha molto a che fare con Ulisse dell'Odissea. Ulisse è un eroe straordinario, comincia la sua carriera nel suo poema epico e finisce nel nostro poema epico, che è la Divina Commedia. E cos'è il poema epico? Il poema epico è la narrazione attorno a cui si forma l'anima di una nazione. Il poema epico, ce lo spiegano Sam e Frodo nel Signore degli Anelli, coraggio padron Frodo, si raccolteranno di noi attorno ai fuochi e riprenderanno coraggio dopo che l'hanno perso, è la narrazione che ci permette di ritrovare coraggio quando siamo dispersi nel buio. Noi ci siamo costruiti intorno anche a quell'Ulisse? Esatto, noi siamo Ulisse. Che l'Ulisse di Dante sia il nostro poema epico ce lo dice Primo Levi, quando in Se questo un uomo ci racconta come lui ritrova la sua umanità cercando di raccontare nel suo smozzicato francese a un compagno di prigionia saziano l'Ulisse di Dante. L'Ulisse di Dante è una narrazione, la Divina Commedia, cristiana, nel senso che c'è una rappresentazione dell'inferno, ma attenzione, almeno due personaggi tra quelli contenuti dall'inferno, sono più di due, ma due sono straordinari, che sono Francesca e Ulisse. Sono personaggi straordinari, sono personaggi positivi. Io li devo ringraziare perché siamo purtroppo in chiusura. Devo ringraziare Silvana Mari, ma segniamo questo voto dell'Ulisse di Dante. Grazie per essere stata con noi. Ne rifiuto due o tre che sono arrivati. Il Tenente Colombo non è un personaggio italiano. Mandrake non è un personaggio italiano. Però riprovateci, continuate a votare su Facebook, la nostra pagina L'Italia vista dallo spazio, e su Twitter usando l'hashtag Cancelletto dallo spazio. Io ringrazio Alessandro Chiappini e ringrazio Antonella Migliaccio. Ringrazio voi per averci ascoltato. L'Italia vista dallo spazio torna per l'ultima puntata domani. Posto numero 24, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.